Letture di Radio 24. Quelli che parlano di bavaglio all'informazione, poi, sono i primi a gioire se il collega del fronte opposto viene radiato dall'albo. Forse la tanto invocata libertà di stampa, per qualcuno, vale solo quando conviene, commenta Pierluigi Battista sul Corriere della Sera. Bisognerebbe avere un metro in comune per scambiarsi i giudizi sulle cose. Un criterio elementare che magari non riesce a trovare la strada giusta per un'irraggiungibile verità, ma che perlomeno non sia apologia dell'opposto della verità, la malafede o l'ipocrisia. E dunque, se su Repubblica Giuseppe D'Avanzo i giorni dispari tuona per la difesa della sua libertà di stampa e i giorni pari gioisce senza ritegno perché hanno messo il bavaglio al nemico Vittorio Feltri, come si fa a trovare un terreno di ragionevole comunicazione tra persone che, pur in dissenso tra di loro, dovrebbero godere del beneficio della buona fede? Che idea bislacca della libertà di stampa può mai avere chi la rivendica solo per sé, per poi negarla con la stessa arrogante perentorietà a chi non gli aggrada? Che la cultura liberale non abbia mai goduto in Italia di ottima salute è del resto cosa stranota. L'idea che le libertà debbano valere per tutti è ovunque acquisizione così ovvia da non richiedere ulteriori chiarimenti. Da noi, intrisi come siamo di mentalità fascista, invece bisogna ricapitolare ogni volta da capo, pazientemente, l'ABC del liberalismo. E l'ABC del liberalismo sostiene che un giornalista costretto a non scrivere è uno spettacolo avvilente. Sempre, a prescindere dalla collocazione politica di chi viene imbavagliato. Non si sa invece da quale altro catechismo ideologico D'Avanzo abbia ricavato la lezione opposta. Le garanzie valgono solo per gli amici e non per i nemici. I grandi principi sono intoccabili per il mio clan, ma possono essere manipolati a piacimento quando a essere colpito è il clan rivale. Qui al Corriere si detesta il metodo boffo. E infatti non lo si pratica, mai. Non come nei giornali di destra che sbandierano la tutela della privacy e poi si scatenano nella demolizione di quella dell'avversario politico. E non piace il bavaglio, e infatti non lo si invoca. Anche in questo caso, mai. Non è terzismo, è cultura liberale, sconosciuta a chi, giustamente, protesta per il proprio bavaglio e invoca, spudoratamente, quelli destinati a soffocare la voce del nemico. Se Feltri ha violato la legge, che paghi, come tutti i cittadini. Ma se al posto di un tribunale della Repubblica, un'inquisizione corporativa stabilisce che un giornalista non possa scrivere per 3 mesi, allora è censura. L'altra sera, intervistato da Daria Bignardi, Eugenio Scalfari ha sostenuto che Feltri meriterebbe la radiazione a vita dall'albo dei giornalisti. Chissà quale apocalittica punizione dovrebbe invocare allora per chi, nel suo gruppo editoriale, pubblicò negli anni 70 colossali patacche sul conto dell'allora presidente della Repubblica, Giovanni Leone, costringendolo a ingiuste dimissioni. Ma l'abbiamo capito, la libertà di stampa è buona solo per se stessi. Vale solo se conviene. Se non conviene, viva il bavaglio, da mettere sulla bocca degli altri. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista, La doppia misura della libertà di stampa, dal Corriere della Sera del 15 novembre. Letture di Radio 24. All'inizio degli anni 60, nei seminari italiani c'erano oltre 9.000 giovani. Oggi sono meno di un terzo. E per ovviare alla crisi delle vocazioni, arriva al seminario part-time. Arrivano il mercoledì e restano fino al venerdì. Studiano, pregano, giocano, come si fa in tutti i seminari. Certo, non siamo molti. Anche mettendo assieme i grandi della teologia con quelli del minore, non riusciamo a organizzare 2 squadre di calcio. È un entusiasta, Don Luca Pedroli, 40 anni, rettore del seminario di Vigevano, dove c'è anche la comunità a tempo, vale a dire il seminario part-time. I ragazzi che vengono qui sono seminaristi, ma anche ragazzi come gli altri, che vanno alla scuola pubblica, hanno amici e amiche. Non è facile spiegare. Non ci sarebbero problemi a tornare il seminario di un tempo. Abbiamo tante camere, le aule, le biblioteche, una chiesa e una cappella. Adesso c'è pure la palestra. Ma non vogliamo il seminario di una volta, chiuso all'esterno, con i ragazzini che già in prima media erano vestiti da preti. Un'istituzione chiusa è pericolosa. Vogliamo che i ragazzi provino una vita di comunità solo 3 giorni la settimana, e poi tornino a casa loro. Così, con calma, potranno pensare al loro futuro. Il seminario a metà tempo è una delle risposte alla crisi di vocazioni, non certo aiutata dalle accuse di pedofilia, che hanno superato anche le vecchie mura dei seminari. Gli scandali, dice Don Luca Pedroli, ci hanno fatto molto male. Ma bisogna ricordare che i fatti denunciati risalgono quasi tutti a 20 anni fa, e già allora tanti vescovi avevano deciso di chiudere il seminario minore. Per abolire i luoghi chiusi, si disse, e anche per dare un ruolo primario alla famiglia. In questi ultimi tempi siamo stati quasi costretti a riaprire queste comunità a tempo, perché purtroppo ci sono troppe famiglie che hanno rinunciato al dovere dell'educazione dei loro figli. Prendiamo atto della nuova realtà. Le vocazioni sono poche, ma forse è un bene. Meglio un prete buono, invece di 10 che diano il brutto esempio. Noi abbiamo compreso i nostri limiti. A seguire i nostri ragazzini c'è infatti anche una psicologa per l'accompagnamento umano in quella che resta un'età delicatissima. Sono ancora 64 i seminari minori sparsi nelle diocesi italiane. L'ultima idea è quella del seminario sotto casa, che prenderà vita prima di Natale a Como. In ogni unità pastorale, l'unione di 6, 8, 10 parrocchie, verrà trovata una casa o canonica dove i giovani possano ricercare la loro vocazione restando però nel loro paese. I dati ufficiali sui nuovi ingressi nei seminari saranno annunciati solo a febbraio, ma sembra che non ci sia stato un altro crollo, anche perché da anni i numeri sono esigui. Quasi tutti i giovani, dice Don Nico Dal Molin, direttore del Centro Nazionale Vocazioni della CEI, entrano in seminario dopo la laurea, o almeno dopo il diploma. Non solo la Chiesa, dice Luca Diotallevi, autore dell'ultima ricerca sui seminari, è in difficoltà quando cerca di avvicinare i giovani. Questo anche per questioni demografiche. Nel 1963, quando i seminari erano ancora pieni, nacquero 1.400.000 bambini. L'anno scorso ne sono nati 450.000, stranieri compresi. Anche l'esercito, ad esempio, ha dovuto abolire la leva e ora è alla ricerca di forme sempre nuove per agganciare i giovani. Nella Chiesa vedo un rinnovamento ormai diffuso e tutta la fantasia pastorale è all'opera per pescare nella tradizione della Chiesa, come dice il Vangelo di Matteo, cose antiche e cose nuove. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Jenner Meletti, Preghiere, Studio e Calcetto, il nuovo seminarista e part-time, da Repubblica del 9 novembre. La corsa a prendere possesso delle case dei mutuatari statunitensi deficitari si è rivelata un vero boomerang per le banche. Bancari disattenti hanno accompagnato gli ordini di sfratto con documentazioni incomplete e così adesso non è facile far uscire di casa i vecchi proprietari. Si calcola che questo ritardo, in alcuni casi arrivato già a 18 mesi, equivalga a 2,6 miliardi di dollari, circa lo 0,25% del reddito americano, uguale allo stimolo fiscale concesso da Bush all'1% della popolazione, i cosiddetti superricchi, quando abbassò l'aliquota fiscale. Questi valori non tengono conto del fatto che circa un terzo dei mutuatari che non si riesce a sfrattare ha affittato la propria casa e ne percepisce una rendita. A rimetterci sono le amministrazioni locali, che non possono imporre tasse su queste abitazioni, al momento ferme nel limbo burocratico, ma anche le banche rischiano grosso. A settembre erano proprietarie di circa 1 milione di case, mentre altre 5,2 milioni risultavano in procinto di essere assorbite dal settore bancario. A questi ritmi ci vorranno però più di 10 anni per liberarle e venderle. Si stima che la perdita ammonti a 10 miliardi di dollari al mese. È uno dei prezzi che le sciagurate banche pagheranno per avere concesso i mutui subprime. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Loretta Napoloni «Alle banche americane non riescono gli sfratti» da Venerdì di Repubblica del 12 novembre.